Ora cercherò in questo incontro di essere un po' più rilassato, però vuol dire che poi stiamo 3 ore insieme, rilassato ma non troppo, perché l'intento di questa mattina è proprio quello di fare una panoramica su quella che è stata la storia della Chiesa, come la Chiesa ha operato, ma soprattutto e innanzitutto quando il Signore è stato fedele nel accudire, rinforzare e portare avanti ogni attività che noi abbiamo svolto e siamo qui. Parto subito con leggere due passi della parola di Dio. Uno è in Salmo 100, dice: "Perché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione, la sua fedeltà per ogni generazione. Ogni cosa che noi viviamo, lui è fedele, sii fedele a Dio, sia fedele a Dio in tutto quello che sei, ma possiamo dire nel venire agli incontri, qualsiasi cosa accade, nelle offerte per sostenere tutte le attività spirituali, nell'inviare ogni cosa, nella chiamata che hai. Che cosa ti ha detto il Signore? Che cosa ti ha chiesto?" E poi l'altro è il Salmo 46 che dice: "Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà." Un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il Signore non ci lascia mai da soli. Il Signore è sempre al nostro fianco in tutto quello che noi viviamo. Perciò adesso avremo da vedere anche alcuni video. Partiamo con la seconda puntata del video di Sofia e me. Beh, io devo dire, facendo così uno zoom su tutto l'aspetto di vita ministeriale, è stato quello che il Signore mi ha spinto a fare, era focalizzarmi sulle persone che desideravano crescere e servire il Signore e tralasciare o almeno mettere in secondo ordine quelli che erano o le critiche o le difficoltà che venivano anche da aspetti caratteriali con le persone, e quindi veramente concentrarti su quello che stai facendo e che nel piano di Dio le persone che crescevano, questa dava gioia, dava forza e dava anche coraggio di continuare. È stata molto difficile delle volte, ma come ho già detto, il mio rifugio era il Signore. Io sapevo che il Signore mi voleva in Italia, io sapevo che il Signore voleva che prendevamo la responsabilità della Chiesa. E io sapevo anche che il Signore ci deve aiutare. Rimanere fedele è stata proprio quella certezza della chiamata. Se non avevo questo, credo che sarei sfuggito in Olanda. Ma sapendo che questo era il posto del Signore per me, per noi, mi ha mantenuto. Tre cose che in un qualche modo sono state la costante nella mia vita, anche di coppia pastorale, ma nella mia vita è stato proprio il discutere con il Signore, il parlare continuamente di ogni cosa, e non era focalizzato sul mio tempo di dedicazione. Ricordo molto bene che mia moglie sempre mi prendeva e dice: ma tu non preghi mai? Perché non mi vedeva in un qualche modo seduto alla scrivania o in quella maniera, mentre io avevo sviluppato di farlo costantemente, in ogni situazione. Se hai da piangere, se hai di gridare, fallo con il Signore. Anche questo ho vissuto tanto da parte mia, tante lacrime nella mia macchina per le difficoltà che dovevo affrontare, ma era proprio anche quello, era preghiera, piangere e pregare, perché il Signore asciuga le nostre lacrime, quindi è una riparazione. E poi proprio a causa del poter e saper ringraziare per tutto quello che succede, perché nel ringraziamento c'è veramente la mano di Dio che porta avanti quello che stai facendo e quello che vuoi realizzare, e permette di costruire al meglio quello che tu stai realizzando o quello che io sto realizzando, e per tutti noi. Ma adesso che noi siamo stati 45 anni pastori della Chiesa, io 50 anni che sto in Italia, devo veramente ringraziare il Signore che Lui mi ha aiutato a rimanere fedele, perché adesso sto tanto godendo del frutto sull'opera che abbiamo potuto fare per Lui. Sai, se noi rimaniamo fedeli a Lui, Lui rimane fedele a noi, non ci delude, ci aiuta. E mentre che hai difficoltà, non vedere la difficoltà come un ostacolo, ma cerchi di vedere la difficoltà come un'opportunità. Se sta scritto nella Bibbia che tutte le cose cooperano al bene, è vero che cooperano al bene. Forse non il bene che io desidero o che io avrei voluto vedere, ma alla fine il bene del Signore è importante. Io sono così grata al Signore della sua fedeltà verso di me, verso di noi, verso la nostra famiglia, verso la nostra Chiesa. Questo era il vissuto da noi, da parte di mia moglie e mia. Ma adesso vogliamo veramente fare una carrellata di quello che abbiamo vissuto come Chiesa. Il tempo non è sufficiente, ma cercheremo di recuperare. Io ho diviso, noi abbiamo vissuto 5 decenni, 50 anni, e ho suddiviso in 5 parti quello che abbiamo vissuto, e lo andiamo a vedere. L'inizio è stato nel 1970, quindi vediamo dal 1970 fino al 1980 com'era la fedeltà del Signore. Nei primi 5 anni di questo decennio erano caratterizzati molto dalla evangelizzazione in tutti i modi, soprattutto con una tenda. Si aveva allora una tenda che era di stoffa molto grande, con un doppio telo, con due pali centrali e tanti pali intorno, e con questa potevamo andare solo dove c'erano terreni, non nelle piazze, perché dovevi piantare dei picchetti. E poi tanti incontri all'aperto, in ogni modo, vedi anche le foto, quello che era, che caratterizzava quegli incontri all'aperto era questo strumento, il megafono o quelle trombe che si attaccava a un microfono e tu annunciavi l'Evangelo, testimoniavamo cambiando piazze, strade, quartieri, in ogni posto. Anche all'inizio, anche Sofia ed io abbiamo tanto partecipato, sin dall'inizio, anche se noi collaboravamo di più in Molfetta a fondare anche lì una chiesa dove Renzo e Gianna si erano trasferiti dal mio paese, dove tramite di loro ho conosciuto il Signore. E quindi in quegli anni, proprio allora, diciamo subito all'inizio, è nata la chiesa. Abbiamo fittato, si è fittato dei locali, due locali piccolini, che poi venivi cacciato perché poi tante di quelle cose, fino al 73, quando si è potuto acquistare il locale di via Santa Lucia, e lì ha continuato fino a poco tempo fa e continua ancora a essere un mezzo per l'opera del Signore. Quel locale, veramente tanti hanno collaborato anche nei lavori, ma anche nell'acquisto, proprio Pasquale Paccione, perché altrimenti vedevano gli olandesi, Alberto e Corine, che avevano iniziato e chiedevano un sacco di... avevano chiesto 20 milioni di lire e l'abbiamo pagato 3 milioni e mezzo, quindi immaginate lo scarto. E vedete anche i lavori che lì nelle foto si vede, c'è pure Stefano proprio piccolino, ragazzino, che sta lavorando, poi potete vedere. È stato qualcosa di incredibile. Poi in quel periodo stesso, perché tante cose contemporaneamente, è nato anche Pensieri dall'Alto, che è continuato fino quasi all'anno scorso, e termina dopo 40, credo 45 anni che è stato pubblicato. Però all'inizio non era Pensieri dall'Alto, era Mopotri, fatto a ciclostile. Io lo so che la gran parte non sa nemmeno che cos'è un ciclostile, va bene, ma era qualcosa a mano, disegnavi, vedete. E Mopotri significava modugno, potenza, tricarico, irsina. È incredibile, vedete. Poi ci hanno criticato perché nel disegno di Modugno avevamo messo il mare. Dice: ma a Modugno non c'è il mare, che ne sapevamo noi che eravamo in montagna, che lo facevamo a tricarico il giornalino. Allora era vicino, per noi era vicino al mare, niente di più. Nello stesso tempo siamo diventati di edizione, abbiamo stampato dei libri. Il primo libro è stato proprio questo, Il fondamento della fede, e abbiamo distribuito tanti di questo, perché ci aiutavano a crescere e a stabilizzarci anche come chiesa. In quegli stessi anni noi, Sofia ed io, abbiamo preso il pastorato, cioè abbiamo preso in affidamento, lo diciamo adesso pastorato, ma era in affidamento il piccolo gruppo che era da poco, da qualche anno nato. E la caratteristica maggiore di quel periodo è stato proprio lo scoraggiamento, la delusione. Perché? Perché non per le cose, perché la chiesa allora, io do sempre questa immagine, era come una galleria, aveva un'entrata e aveva un'uscita, tanti ne entravano, tanti ne uscivano, e quindi rimaneva sempre un piccolo gruppo nel tempo. Ho imbrogliato pur tutti i fogli. Devo cercare di andare veloce, però e devo rimanere anche tranquillo. Va bene. In quel periodo anche voglio aggiungere, per essere di incoraggiamento, noi vivevamo anche una instabilità finanziaria, cioè I doni che riuscivamo a ricevere dalla Chiesa dell'Olanda e dalla Chiesa di Modugno, perché era l'inizio, pagavamo il fitto, che era 45.000 lire. Incredibile, quelle cose. E il Signore aggiungeva e non ha mai fatto mancare nulla. Il Signore non fa mai mancare nulla a chiunque lo serve e rimane fedele. E rimane fedele a Lui. Questa è una certezza, a dire il vero, è proprio una certezza. Poi, sempre in quel periodo, la Chiesa incominciava anche a stabilizzarsi e a crescere anche nei secondi 5 anni, verso la fine degli anni 80, cresceva e si stabilizzava. Però io voglio anche dire che al momento attuale, anche per renderci conto, al momento attuale del gruppo della prima tenda del 1970 sono rimaste solo 3 persone, alcuni sono andati con il Signore, altri sono andati via, ma chi è che è rimasto? È Pasquale e Graziella, Donata e Graziella Altamura. Questi sono proprio dell'inizio, è incredibile. Anzi, vediamo una testimonianza di Donata. Io ricordo benissimo che ero una bambina e giocavo davanti a casa, no? E quindi in un momento poi sentii cantare, ma canzoni un po' particolari che non riuscivo a capire bene, e quella chitarra che mi sentivo così di correre, vedere che cosa stesse succedendo. Vidi un gruppo di persone che cantavano e facevano questi inviti ai bambini, e quindi ero lì io in prima linea a cantare con loro, non sapendo nemmeno cosa stessi cantando. Alla fine mi dissero: stasera chiama tua madre e vieni, che avremo un incontro per i grandi. Così io corsi a mia madre e dissi: mamma, vieni, che stasera ci sono delle persone più grandi che andranno. E mia madre, molto incuriosita, incominciò pure lei a frequentare ogni sera questi incontri che si tenevano sotto la tenda. Subito accettammo Gesù. Poi a un certo punto io ho incominciato a frequentare questo gruppo insieme a mia madre. E quindi le mie amiche incominciavano ad allontanarsi da me, perché i loro genitori non volevano che frequentassero me come amica, perché io frequentavo una chiesa evangelica. Bambina com'ero, ho dovuto lottare contro questa cosa. Ho affrontato l'adolescenza con questi occhi su di me, che ero sempre quella bambina, quella ragazza diversa dalle altre. Più crescevo e più mi rendevo conto che io amavo Dio. Io ho amato Dio già dalla mia tenera età. Io servivo Dio, ecco, servivo già Dio anche in chiesa. Io ricordo che la moglie del pastore mi diceva: dai Donata, mi vieni aiutare a lavare il pavimento. E non c'era ancora gli attrezzi, non c'era uno straccio, non c'era un secchio, e io andavo a casa di mia madre, prendevo il secchio, straccio, e andavo ad aiutare la moglie del pastore a lavare il pavimento, a mettere in ordine la sala. E ben presto io mi sono ritrovata nel gruppo dei bambini a guidare i bambini nella lode e nell'adorazione. Allora, la cosa che io ho imparato nei primi anni è stata l'ubbidienza a Dio. Essendo piccola, io ubbidivo al comandamento di Dio, ed era quello prima di tutto di battezzarmi. Infatti io mi sono battezzata che ero molto, ma molto giovane, e quindi ho dato già la mia vita a Gesù da subito. Ho proprio i primi inizi, è bello vedere proprio questo. Poi devo dire anche che in quei tempi anche l'evangelizzazione, come ho detto prima, continuava e noi inventavamo ogni cosa, veramente il Signore era al nostro fianco. Per esempio, di questi periodi a novembre, noi stavamo sempre vicino a tutti i cimiteri per dare volantini che parlavano della vita e non della morte. Anche un altro espediente che avevamo era perché per non avere i permessi era la mia licenza di venditore ambulante dei libri. Questa è del 1973. Ci sono i bolli, ogni anno dovevi pagare dei bolli. E quindi è bello vedere anche questo. Mettevi un banchetto e potevi usare anche l'amplificatore per propagandare. Non avevamo frutta e verdura, avevamo libri. Era la cosa che potevamo fare. Però annunziavamo con le testimonianze e quindi anche molte volte anche tutto il giorno. Devo dire che anche quel periodo è stato il periodo del forte aiuto. Anche la Chiesa incominciava a crescere e forte aiuto delle sorelle. Le sorelle, alcune sorelle sono state dei pilastri fondamentali, anziani non nominati come Graziella Altamura, Carla Viale, la mamma di Stefano, Laura, l'altra, incredibile, non li conoscete, però per noi sono stato un aiuto veramente grande. In quel periodo stesso è anche nato l'associazione Missione del Pieno Vangelo. Abbiamo preso la libreria a Bari e con la libreria era un forte mezzo di evangelizzazione. Avevamo anche, come ho detto, la pubblicazione di libri. Insomma, c'erano tante attività. È stato qualcosa di bellissimo vedere la fedeltà di Dio per come ci sosteneva, ci aiutava e noi riuscivamo nelle cose. Non era forza nostra, non è forza tua. Confida nel Signore e Lui realizza ogni cosa in quello che Lui ti ha chiamato. Prendendo gli anni dal 1980 al 1990, alcune cose molto belle, cioè la Chiesa incominciava non a crescere ma a moltiplicarsi, e questo anche grazie alla libreria che avevamo preso. Era un mezzo evangelistico incredibile, con le persone che venivano. In quel tempo curavamo anche, avevamo preso in cura la chiesa di Ersine, perché non tutti sanno che questa opera missionaria è partita da Potenza, poi è andata a Tricarico, Ersina, poi Modugno e poi anche Trani, e quindi noi come chiesa avevamo preso la responsabilità di Ersina, che in un secondo momento abbiamo affidato a Michele e Maria, e loro andavano ogni settimana ad Ersina e a spese loro. Anche questo è bello da vedere. C'è una testimonianza di loro, ascoltiamola. Ho visto la Chiesa sin dal primo giorno, che mi è diventata parte della seconda famiglia, diciamo. E possiamo fare un esempio: nella famiglia, se un figlio subisce un qualcosa o si smarrisce in qualsiasi situazione, il genitore che fa? Si prodiga tanto affinché aiuta il figlio. E allo stesso modo ho guardato io la Chiesa, perché l'ho presa veramente come seconda mia casa. E diciamo, più che altro, anche se poi le situazioni diventano difficili, io credo che possiamo fare un esempio anche dell'Apostolo Paolo quando era nel carcere, perché lui, nonostante predicava, evangelizzava, ne faceva tutto per il Signore, eppure subì il carcere. Nonostante tutto, lui che faceva? Cantava e lodava a Dio, fino anche è scritto alla mezzanotte addirittura. Cioè, questo fa capire quando lui credeva solo ed unicamente in Dio, perché solo in Dio troviamo veramente la forza di andare avanti. Allora, se noi guardiamo spiritualmente, le situazioni cambieranno. Vi posso fare un esempio di un ciclista. Un ciclista che fa? Lui si iscrive e poi deve concorrere. Quando va a correre, non guarda la salita, il sudore che deve subire, tante di quelle cose, il pericolo, è una discesa pericolosa, ma lui guarda l'obiettivo, il traguardo. E io credo che se noi abbiamo questo in mente, riusciremo fino alla fine. Allora, io ho sempre amato Dio e quindi anche durante le situazioni difficili che sono venute a trovarmi, ho continuato a servirlo, sia nella Chiesa e soprattutto nei compiti della Chiesa, lasciando qualcosa ma facendo quello che a me portava pace e serenità. Ed essere circondati soprattutto di persone positive, perché ti incoraggiano ad andare avanti, continuare sempre a venire in Chiesa, continuare a servire il Signore, e quello che mi ha anche tanto aiutato è stato incontrarmi con delle sorelle e pregare insieme, perché nel pregare il Signore ascolta ed esaudisce anche quello che tu chiedi. Non sempre possiamo avere le risposte subito, per questo dobbiamo continuare sempre a seguire Gesù, a servire Gesù nella Chiesa, a fare ogni cosa che appartiene a Lui, perché solamente così possiamo continuare a crescere con il Signore. Questa è stata la mia esperienza e per questo sono grata a Dio per la bella famiglia che mi ha dato, per i pastori, la Chiesa, ogni sorella e fratelli. E anche in questo vediamo quanto la fedeltà di Dio è buona verso di noi, veramente è stato stupefacente. Ora passiamo all'altra fase. Io lo so che vado di corsa, non vi rimarrà tutto, però almeno avete una forma di panoramica di tutto il percorso della Chiesa. Parliamo dal 1980 al 1990. Nei primi anni del 1980 90, come ho detto, c'è stata questa moltiplicazione a causa della chiesa a causa della libreria in Bari. E poi in quegli anni, proprio in quegli anni iniziali, c'è stato anche il terremoto in Basilicata e in Campania. Perché lo nomino? Per il fatto che noi come chiesa ci siamo impegnati ad aiutare anche, abbiamo ricevuto doni dall'Olanda, migliaia di stivali perché lì il fanco, biancheria intima perché non avevano più niente, e l'abbiamo portato, ma in più quello che abbiamo fatto, ci siamo trasferiti con la tenda e siamo stati mesi e mesi in quell'area a evangelizzare i paesi che erano e venivano sotto la tenda, perché molti non avevano nemmeno una casa vera e propria, l'avevano persa con il terremoto. Poi, ma credo che l'avevo già detto questo, no? No, non avevo idea. Ero passato subito a Yersinia e queste cose, va bene. Nei 5 anni di dopo sono nate molte altre opere, come per dire abbiamo iniziato il centro tossicodipendenti, se vedete le foto ne vedete qualcuno lì ancora di quelle foto, è incredibile. A Balsignano c'era una villa che adesso è abitata, allora era disabitata, noi l'abbiamo aggiustata. In quello stesso periodo abbiamo iniziato la chiesa a Bari. Perché? Perché venivano tante persone da Bari e noi non entravamo più nei locali di via Santa Lucia. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutto il gruppo e abbiamo iniziato una chiesa a Bari con Franco Crocitto. Nel contempo anche a Cassano, perché Cassano, il fratello Michele e la sorella Graziella avevano dato in affidamento dei locali, noi li avevamo trasformati e c'era anche un locale di culto e lì si è iniziato con Rocco e Angela montare un lavoro proprio da zero, pioneristico per dire in quella maniera. Insomma, Che dire? Dire che la fine anche degli anni Ottanta, per noi, Sofia e me soprattutto, non è stato un periodo facile, è stato anzi molto difficile. C'era incomprensione fra i collaboratori, la critica e in più anche la Chiesa si era istituzionalizzata, cioè era la Chiesa evangelica come la Chiesa cattolica, si frequentava, ma incominciava a venire meno quello spirito vivo e attivo di servire, quello che non manca adesso, grazie anche a tutti i nostri servitori che danno uno stimolo molto forte. Lì abbiamo vissuto un periodo molto buio. Quando parlavo di lacrime, la mia macchina era la mia cameretta e lì ho versato tante lacrime, ma il Signore è stato fedele veramente a incredibile quello che è riuscito a fare nella nostra vita, ma anche per la Chiesa. Poi, proprio in quel periodo, anche per me ho avuto una visione. Il Signore mi ha fatto vedere la mia vita e dovevo scegliere. Che vuoi fare? Vuoi smettere adesso? E noi volevamo anche chiudere addirittura la Chiesa. E ho detto, noi rimaniamo fedeli al ministero che il Signore ci ha affidato, e Lui ha benedetto grandemente, è una cosa incredibile, e Lui ha promesso, non vi lascerò. In quel periodo abbiamo anche acquistato il rifugio, che ancora oggi noi poi vediamo alcune cose. Poi, passando al decennio di dopo, lo so che va veloce, però che io ho l'ossessione di sentire la musica qui dalle spalle, che all'inizio mi sono proprio spaventato, allora ecco che sto anche correndo, però mo non mi coglie impreparato. Dal 1990 al 2000 è stato veramente caratterizzato, ma molto bello, proprio dall'opera, dalla promessa, che il Signore ha mantenuto la promessa che ha dato, non ti lascerò. E infatti in quei primi 5 anni abbiamo di nuovo vissuto l'incertezza finanziaria, perché sostegni che venivano dall'estero non venivano più, ma poi il Signore ha aggiunto. È incredibile come Lui ha potuto e saputo fare. Ma la cosa più sorprendente è che per caso, è capitato qui da noi un pastore dall'America, il pastore Ron. E per noi, per mia moglie ed io, è stato veramente un angelo mandato dal Signore. Lui non solo ha consolato, ha costruito, ma è stato una domenica, né più né meno, a pranzo, la sera, e poi doveva andare nel Kosovo. Vi immaginate, ma in quei momenti il Signore gli aveva affidato una parola per noi e anche un messaggio per la Chiesa. Ed è lì che abbiamo iniziato le sentinelle di preghiera. Più di 12 anni abbiamo continuato, ogni notte, dalle 11 o le 12 la sera, alle 7 la mattina, ognuno si alzava un'ora e dedicava al Signore la preghiera per tanti, tanti anni. E questo è stato veramente un rivitalizzare la Chiesa, un rivalutare anche tutti quanti noi. Ma anche per caso, ancora per caso, ma per caso è venuto un altro gruppo dall'America nello stesso periodo, negli anni 90, perché dovevano andare a Napoli. Napoli non l'hanno voluto e noi prendevamo, non si può dire il detto, prendevamo tutti quelli che servivano il Signore, va bene? E un gruppo di 22 persone. E veramente loro hanno rivoluzionato il nostro modo di fare evangelizzazione in una maniera incredibile. Poi i gruppi sono continuati a venire durante tutto quel decennio, e fra questi gruppi c'era pure Carli, che poi è rimasta, va bene, come Sofia, va bene. Molto bello vedere come il Signore ha operato in quegli anni. In quegli anni poi abbiamo anche iniziato, proprio agli inizi, abbiamo iniziato i gruppi familiari. E i gruppi familiari hanno permesso la crescita in una maniera esponenziale, incredibile. Tanti collaboratori sono venuti e sono venuti collaboratori, ma anche, per dire, proprio servitori. Io nomino uno per tutti, Stefano e Angela, sono stato il mezzo per realizzare il piano che Dio aveva con la Chiesa. In quel periodo abbiamo cambiato anche la lode e adorazione, perché prima si stava seduti, composti, e allora poi credo sono stato a una conferenza a qualche parte e lì ho capito che c'era di più nella lode adorazione che cantare semplici canti, dare proprio se stessa. Allora io sono ritornato, ho incominciato ad alzare le mani e pensavano che io ero uscito fuori di testa. Sono andato sul podio io da solo con un registratore e ho cantato, non sono impreparato, e ho cantato Innamorato di Gesù, qualcosa di bello, vedete? Il Signore è stato buono nei cambiamenti, mantenendo, e la Chiesa era fedele, era forte, accettava cambiamenti, accetta cambiamenti e sfide, e questa è la caratteristica di noi. E per questo eravamo fuori, sentite, anche se dura più a lungo, ma le devo dire alcune cose. Ero con i figli di Simone, e Simone gli raccontava, questi sono i primi 50 anni così, allora, e il piccolo, non so chi dei due, ha detto: e io vedrò fra 50 anni. Amen, ho detto. Arriviamo a 100 anni. Non so quanti di noi ci saranno, io no, ma potremo. Ah sì, sono bellissime, bellissime cose. E quindi anche quella è cambiata. Ma immaginate che nei primi anni del 1990 è accaduta un'altra cosa molto speciale. Il fratello Michele Altamura aveva lavorato 35 anni come costruttore elettricista e ha detto: adesso mi voglio fermare e voglio dare al Signore la decima di quegli anni. 3 anni e mezzo andati in missione in Albania, visitando le scuole, visitando ogni cosa, e ha fatto un lavoro, e poi è tornato perché c'è stata la guerra in quel periodo in Albania. Anche nei primi anni abbiamo svolto tanti, tanti lavori al rifugio. Abbiamo rivoluzionato il rifugio, perché gli americani che venivano a dormire là, dormivano coi topi, con gli uccelli che volavano nell'auditorium, pioveva dentro, di tutto. Allora abbiamo incominciato a cambiare un poco, a fare questi lavori. Tutta la Chiesa, ma veramente giovani soprattutto, venivano e aiutavano. E io voglio nominare una persona per tutti, perché Antonio Altamura, lui si è dato, ma anche insieme ad altri, Michele, Stefano, tanti. Perché nomino lui? Perché in quel periodo iniziavano le casse integrazioni e lui era in cassa integrazione. Invece di andare a fare un altro lavoro per sostenere la famiglia, veniva al rifugio per lavorare, e il Signore non ha fatto, anzi ha moltiplicato. Ha detto: mai come in quel periodo abbiamo potuto mettere anche da parte dei soldi. Non ha dell'incredibile questo, come il Signore veramente, quando noi lo serviamo, lui rimane fedele. In quel periodo stesso abbiamo iniziato anche una chiesa a Bitonto con Adriano e Jeanette, che erano venuti in missione per il centro tossicodipendenti, e poi abbiamo iniziato anche lì a Bitonto, che è durato diversi anni, poi è venuto a scemare per diversi motivi. E noi, mentre noi qui, però non qui, lì a Via Santa Lucia, iniziavamo i due culti, perché non potevamo continuare a staccare sempre un gruppo e creare un'altra chiesa. Abbiamo iniziato a fare i due culti e continuavamo sempre con le evangelizzazioni. In tutto quel periodo il gruppo dall'America sempre ci ha dato aiuto, e il Signore è stato un aiuto incredibile per noi. passiamo alla la prossima fase, che è quella dal 2000 al 2010. Io lo so che vi rimarrà, però almeno avete una infarinatura, va bene, di tutto quello che è accaduto. Poi se volete sapere di più, va bene, c'è sempre modo. Il primo decennio, 2000-2010, io l'ho caratterizzato come il decennio dei giovani, gli upside down. Il nostro pastore, ventenne allora, proprio 20 anni, aveva da poco anche accettato il Signore, ha accettato la sfida di prendere i giovani. Era un gruppetto di 10-15 persone, aiutato da Sara, hanno fatto crescere questo gruppo fino a 70-80 persone. È incredibile, è stato qualcosa di stupendo. E c'è stato allora, anche a causa di questo, uno spostamento. La chiesa si è spostata in via Filzi, dove adesso abiterà qualcuno, proprio in quel posto, sopra là, la Benedetta. Allora, era sotto, puzzava, però per lasciare lo spazio ai giovani. Anche quello è stato di benedizione, anche lì facevamo i doppi culti. In quell'epoca è iniziato anche il ministero delle donne, e Sofia ha incominciato a essere operativa in questo, perché è sempre è stata in casa e con i bambini, e il ministero degli uomini con Stefano. Insomma, era qualcosa di molto bello. In quel tempo abbiamo acquistato anche i terreni che noi abbiamo in via Paradiso, dove il Signore ci permetterà di costruire una nuova struttura. E poi abbiamo avuto anche di nuovo uno spostamento qui, in questi locali, perché non si poteva più stare, e finalmente potevamo fare, era immenso per noi, un unico culto, ma è durato poco, perché quasi subito dopo abbiamo iniziato di nuovo due culti. La chiesa continuava a crescere, il Signore benediceva in questa maniera. Bene, arriviamo verso la fine. Poi in quel periodo anche abbiamo preso la responsabilità del rifugio come chiesa, anche perché erano venute delle difficoltà con collaboratori della missione, ma va bene, queste erano cose. Il Signore anche in quello è stato fedele, e dobbiamo dire che oggi anche sotto la responsabilità di Gianluca e Carli, Mimmo è a tempo pieno quasi, che opera, anche questa è in missione. Non lo dobbiamo dimenticare, e lui è sostenuto con un piccolo dono, ma fa una grande opera, e preghiamo che questo possa andare oltre e oltre. Stesso periodo, la nostra affaccendata Luciana veniva, la segretaria di chiesa, per modo di dire, era di tutto, non lo nomino più perché già mandano i messaggi, prezzemolino, allora è arrivata a tempo pieno. Incominciavamo ad avere persone a tempo pieno, noi che non riuscivamo finanziariamente, la Chiesa ha incominciato ad affittare questo locale, ha cominciato a sostenere noi come coppia pastorale proprio completamente, e si aggiungeva anche Luciana, e poi si dava doni anche ad altri ministri. Bisogna anche dirlo, li voglio dire queste cose, anche Mirko, che ha visto l'ombra di una specie di salario all'età di 35 anni, perché fino ad allora lui era operativo per 15 anni, ma riceveva doni. E poi una delle cose che il mio cuore scoppia, io me ne andrò con questo, non apparteneva, non è della Chiesa, ma è venuto fuori dalla Chiesa, i 6-8, tramite Gianluca e Carli, con l'aiuto di Vito, e poi si è aggiunto anche Luis e Milli che collaborano. E la cosa più sorprendente, io non voglio parlare di 6-8, sono fatti loro, va bene, io parlo della Chiesa, ma hanno credo 10 candidati che devono partire, ma noi della Chiesa ne abbiamo 3, e li sosteniamo con doni liberi. È incredibile, 3 missionari, noi siamo, o andiamo o sostieni. Una via di mezzo non c'è. Stai sostenendo i missionari? Stai dando un dono regolarmente ogni mese? Lo so che quando dico questi, stranamente viene la cervicale, il collo diventa rigido, ma rifletti sopra, perché noi in questo vediamo la benedizione di Dio. Non ti stancare. Ma l'altra sfida anche che il pastore accettava, il nostro pastore accettava in quel periodo, Mottola, da un gruppetto che erano venute a visitarci tramite Nicola Le Grottaglie, se vi ricordate, lui ha preso la responsabilità di far nascere una chiesa in Mottola, e adesso c'è una chiesa in Mottola guidata da Giovanni, con un team che lo coadiuva e lo sostiene. Non ha anche questo dell'incredibile? Insomma, noi accettiamo continuamente nuove sfide e non ci spaventiamo. E questa è la grazia e la forza di Dio per ognuno di noi. L'ultimo periodo, 2010-2020, va bene, stiamo terminando, per modo di dire. I culti sono cambiati grazie a Vito. Vito ci ha indirizzato insomma, queste cose che vediamo, non lo so nemmeno come tutto questo, quello che vediamo, incredibile. Ma si diceva fai, è buono, e veramente ha dato una nuova identità alla Chiesa, questo modo di fare, è incredibile. Adesso tanti stanno, non adesso, forse prima, stanno seguendo via streaming anche i culti, e anche questo molto molto bello. In più è venuta un'onda di ministri, incredibile. Abbiamo diviso la Chiesa in tanti settori. Immaginate che il pastore è coadiuvato da una squadra di almeno 23 persone, 24 persone, si è aggiunto qualcuno. 24 persone, incredibile. Poi nel 2015 abbiamo girato la pagina, abbiamo cambiato proprio libro, è incredibile. Abbiamo un eccellente nuovo pastore per la Chiesa che ci guida in nuove sfide e in nuovi orizzonti per la gloria del Signore. Questa è la fedeltà, di Dio. E nel frattempo anche Luigi è entrato a tempo pieno. Quando io dico è entrato a tempo pieno, vuol dire che la Chiesa sostiene finanziariamente. E ha dell'incredibile quanto generosa è la Chiesa, e diventa sempre di più, perché fra sostenere il fitto, sostenere 3 persone a tempo pieno, la missione e tante altre attività, ha semplicemente dell'incredibile. Grazie Signore per come inculchi la tua fedeltà in ognuno di noi. E io vorrei, ma anche quelli io li devo nominare almeno, perché sono aree, sono settori, come non nominare Antonio e Simona per tutti i servizi che guidano, Mario e Nella per i giovani, Enza e Saverio per le coppie, Noemi per gli insegnamenti e la nostra maestra, Leo e Regina che si danno per ogni cosa, Fabia e Melissa, avete visto? Poi è cambiata ancora la lode d'orazione, non è più solo alzare le mani, ballare, fare di tutto e lodare il Signore con tutta la forza che abbiamo dentro di noi, veramente incredibile. Un esercito. E se pensiamo all'esercito dei volontari che ci coadiuvano nell'accoglienza, per esempio, anche la sanificazione che avviene, tutto questo, il team power che mi fa capire quanto oltre sono andato con il tempo. Andate ben 15 minuti e più, incredibile. Ho terminato. Perché stamattina, il fatto era, stamattina era piccolino sulla destra, non lo vedevo, mo l'hanno messo grande, dice questo non vedo, mo glielo faccio vedere. Vabbè, l'ho visto, più di questo, sto terminando. E poi l'eccellenza, le pulizie, tutte quante, lo devo dire questo, nomino uno per tutti. Me stesso, ieri mattina alle 9 ero qui per fare le pulizie. C'è un solo fatto che non ho capito bene, devo essere la prossima settimana a fare le pulizie, va bene, però lo stesso, anche il pastore ma è incredibile, anche questo è un servire in una maniera, un esercito, veramente. E nominare anche i capigruppi, praticamente non alzare la mano, ma in mezzo a noi credo che non c'è uno che non abbia un servizio nella Chiesa. È stupendo, questo vuol dire andare avanti e godiamo di tutti questi frutti. Io voglio terminare con un passo che vale per tutti quanti noi, per ognuno di noi, e questo è in Luca Matteo capitolo 25, cioè anche in Luca, il verso 21, ed è la parabola dei talenti, dove il Signore Gesù dice poi al primo di loro, dice: sei stato fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molte cose. Questa è la promessa per me, ma anche per te. Gloria a Dio.